Ecco dunque cosa troviamo online come sua biografia. Giancarlo Norese, nato a Novi Sad nel 1963, anche questo è falso, lui è nato a Novi Ligure e non a Novi Sad, he expresses his creativity through collaboration with other artists and institutions, ovvero esprime la sua creatività tramite la collaborazione di altri artisti e istituzioni, progetti editoriali, azioni pubbliche, independent teaching experiments, esperimenti di insegnamento indipendente. He was one of the initiators of the Oreste project, fu uno degli iniziatori appunto del progetto Oreste e l'editore di tutte le sue pubblicazioni del progetto Oreste. Ha dormito per 6 mesi sotto un tavolo, vive e lavora a Milano, anche questo penso che sia falso. Dunque il mio tentativo è stato quello appunto di capire radiofonicamente che lavori fa Giancarlo Norese e perché come fase, perché si sveglia la mattina, perché è uno degli artisti italiani meno valorizzati in questo momento. Sicuramente è l'artista concettuale italiano più sottostimato in assoluto, ma questo forse è solo un mio punto di vista, mio e di Anteo Radovan e di pochi altri, ma chi lo sa. Fatto sta che comunque ho tentato di intervistarlo via WhatsApp, come al solito, proprio perché WhatsApp è l'unico metodo che ci permette di fare che il sonoro di una telefonata si senta decentemente. Non me ne vogliono tutti quelli che partecipano alle trasmissioni di Radio Città Fujiko con dei telefoni tradizionali, ma secondo me si sente male, dopo un po' l'attenzione scema, mentre invece io appunto, essendo un po' un disagiato sonoro, ho tentato di fare queste domande a Giancarlo direttamente con WhatsApp, fallendo miseramente naturalmente. Ciao Giancarlo, io sono Beatrice, assoldata per stalkerarti ed intervistarti, e questa è la mia voce. Giancarlo Norese, cominciamo con una domanda un po' banale. Quando hai deciso che saresti diventato un artista? Cioè, ovvero, cos'è stato l'episodio scatenante che ha fatto sì che tu decidessi di operare nel mondo dell'arte? Giancarlo Norese. Allora, non è che abbia proprio deciso di diventarlo, più che altro ci sono stato costretto dalle circostanze. Sentivo di dover fare la cosa più importante, più urgente da fare. Quindi, riassumendo, non sono un artista, ma faccio l'artista. Oppure, come dice Amedeo Martegani, sono l'uomo giusto per iniziare a smettere con l'arte. Giancarlo Norese. In realtà avrei anch'io piacere di farti qualche domanda per un paio di curiosità. Quindi, non considerandoti tu un artista, come definiresti l'artista di adesso? L'artista di adesso è quello che non fa, che si dà alla macchia, che in un mondo di iperproduzione e di protagonismo cerca paradossalmente di nascondersi, che ritrova il tempo perso cercando di capire che cosa rimane quando non si ha più nulla. In sostanza, colei o colui che cerca di capire come vorrebbe vivere. No, ma ti sento. Non ci vediamo, ma ci sentiamo, dai. Non sono riuscita a aprire il video, non so come si fa. Ciao, tantissimo la prima parte, quella. Vedermi, mi vedi, Luciana? Sì, no, io ti vedo, perché ho scegliato, ma il mio video, cioè voi non mi vedete probabilmente. Non ti vediamo, però è importante sapere che c'è. Sì. No, togli, parlo dopo. Giancarlo aggiunge: c'è un bellissimo testo poco conosciuto di Casimir Malevich dal titolo L'inattività come verità effettiva dell'uomo. È un libretto di 100 anni fa che sembra scritto apposta per la nostra epoca. Racconta del fatto che nel momento in cui ci si sottrae alle mansioni più strettamente collegate alla sopravvivenza, si comincia veramente a pensare e in questo modo si ridisegna il mondo. Cosa ci può essere di più urgente, di più importante, di più aderente al momento speciale che viviamo? Quindi Giancarlo, in merito a quello che hai scritto, potremmo anche affermare che Art is Everywhere, Even in Art Galleries sia un intervento ironico, suppongo. In risposta, ecco. Il mio problema è che le esperienze più drammatiche della mia vita fanno ridere gli altri, e viceversa. No, non è ironico, è una specie di assioma che non aspira a misurare il grado di artisticità ambientale, ma ha a che fare con il fatto che non si possa staccare la vita dalla sua componente artistica in senso lato, soprattutto quando l'arte utilizza come materia poetica le stesse sostanze, le stesse tecniche del quotidiano. O forse hai ragione tu, è ironico. Mi sono accorto durante un'intervista in TV che non riesco bene a modulare l'espressione e il linguaggio. Rivedendomi, e non lo faccio quasi mai, nel momento in cui pensavo di dire una cosa molto spiritosa avevo la faccia di uno che sta per piangere. Sono un non artista incompreso, dunque. A questo punto mi sento in dovere di intervenire io, anche perché sia io che un altro artista, Anteo Radovan, siamo tuoi grandi fan. E detto questo, sia io che Anteo potremmo anche noi essere dei non artisti incompresi, però so anche che Cesare Pietro Iusti è un tuo fan e lui non può essere considerato un non artista incompreso in quanto ha appena avuto una retrospettiva al Mambo, e questo sicuramente lo dispone come un artista, compreso o incompreso non sappiamo. Però mi piacerebbe, siccome la nostra radio si occupa di arte e teatro e dunque non siamo tutti addetti del mondo dell'arte, quelli che ci ascoltano, mi piacerebbe che magari raccontassi uno dei tuoi lavori, uno di quelli che magari può scegliere anche Beatrice. Allora Giancarlo, potendo scegliere a mio sentimento, ti chiederei di parlare della rinuncia ad avere un'idea che secondo me è anche correlata al farsi fare le opere da altri. Cara Beatrice, devi sapere che non sono una persona che accumula esperienza, che tiene conto dei suoi errori o successi per migliorarsi o per aggiustare il tiro. Insomma, non mi ricordo un cazzo, ricomincio sempre da zero. A volte sono tristissimo perché sono in una città dove penso di non conoscere nessuno. Faccio esercizi di autocompiacimento, soffro in solitudine. Poi appena partito mi ricordo delle decine di persone che avrei potuto chiamare e delle cose che avrei potuto fare o non fare. Per circa 15 anni ho vissuto in un modo un po' insolito. Mi facevo ospitare dalle persone, anche che non conoscevo, in tante città diverse. E quindi sono sempre stato attento alla qualità e al valore dell'ospitalità. Per farla breve ero a Roma e in uno dei miei giri ero capitato dentro Villa Medici, che sarebbe la sede dell'Accademia di Francia, dove ci sono decine di studi e casette disseminati nel parco. Considerata la bellezza del posto, ho pensato che sarebbe stato bellissimo essere un pensionnaire, ovvero uno dei borsisti dell'Accademia che per molti mesi potevano vivere nella villa, ma ovviamente l'ho subito dimenticato. Tempo dopo fui invitata a una mostra importante, Les Villes, Les Jardins, Les Mémoires, curata da CCB, HUO e LB, che si sviluppava nell'arco di 3 anni. Il mio anno aveva il tema del giardino e allora mi ricordai delle belle casette dentro Villa Medici e pensai che avrei fatto qualsiasi cosa pur di passarci del tempo lì dentro. Qualsiasi cosa voleva proprio dire qualsiasi cosa, e allora risposi che il mio contributo alla mostra sarebbe stato quello di fare qualsiasi cosa i curatori mi avrebbero detto di fare. Fu così che fui ospitato semi abusivamente, perché non riesco mai a scivolare da una parte o dall'altra, sempre in bilico, dentro l'ex atelier di Ingres, che era in quel momento lo studio che ospitava ufficialmente Lorenzo Romito di Stalker. Dico semi abusivamente perché non è che fossi un intruso. Ero regolarmente invitato alla mostra, però non ero un borsista di Villa Medici con stipendio, casa studio e tutto il resto. Lo studio era bellissimo. Aveva una finestra rotta, dalla quale Ingres aveva ritratto probabilmente una vista di Roma. Non aveva né bagno né doccia, ma era riscaldato molto bene. Ho scoperto solo 2 mesi dopo che esisteva una doccia sopra la biblioteca, sul retro. Quindi la mia idea di non avere un'idea si tradusse così. Per oltre 3 mesi lavorai nell'ufficio di Villa Medici, dove scrissi centinaia di lettere ad artisti di tutto il mondo che avevano lavorato sul concetto di giardino, al fine di raccogliere un enorme archivio che sarebbe stato esposto nella mostra. Nella mostra, ma all'interno del lavoro di altri artisti, o dei curatori, o nel catalogo. Gli artisti da contattare mi venivano suggeriti da uno dei 3 curatori, un bravissimo e iperattivo signore che credo conosciate, si chiama H.U., che mi scriveva qualche decina di centinaia di mail alle quali dovevo dare seguito. Ricordo che nel 2000 non esisteva il wifi, ma non avevo nessun problema a sbrigare quelle faccende. Il mio intervento nella mostra, che si intitolava Non so nulla della villa, perché suonava bene ed era basato sul fatto di non sapere le cose, alla fine fu monumentale. Come quantità di lavoro svolto, ma soprattutto era invisibile, cioè nessuno si poteva rendere conto che quelle cartelle plastificate dentro il tunnel, quei testi dentro il sito, quei documenti dentro la serra o quei dati dentro il catalogo erano frammenti della mia opera. Così inventai quello che potrebbe essere il mio motto: il massimo sforzo per il minimo risultato. Però avevo fatto quello che volevo io, vivere nella villa e non avere un'idea. Giancarlo, e oltre alla rinuncia ad avere un'idea e al farsi fare le opere da altri, cosa intendi con la pittura che si dipinge da sola? Giancarlo risponde: ha a che fare con le cose che dicevo all'inizio, parlando di Malevich, dove mi riferivo a una parola che non è stata nominata. Non l'ho nominata perché è diventata mainstream, dove per inattività si intendeva la pares, una parola che non traduco in italiano latino perché non voglio pronunciarla. E in queste cose sono molto efficiente o reticente. Se non voglio pronunciare una parola, non la dico. Dunque, io ho studiato pittura. E il problema principale della pittura è, a mio avviso, il soggetto, ovvero cosa dipingere, non la tecnica. Il contrario di quello che pensa Filippo Falaguassa. Per lui il soggetto è indifferente, basta l'esercizio di una tecnica. Ultimamente, avendo voglia di dipingere, mi sono chiesto in che modo evitare di dover scegliere un soggetto. E già che c'ero, come riuscire a fare in modo di realizzare una specie di pittura acheropita, cioè non dipinta dalla mano dell'uomo, come certe macchie che si vedono sui muri che possono somigliare a madonne. Questo sempre per empatia verso quella parola che non voglio pronunciare. Ero stato invitato a una mostra in Svizzera, una collettiva che traeva spunto dalle tematiche legate alle migrazioni, all'accoglienza dei corpi e delle idee. Una delle mie opere in mostra, di quelle visibili molte volte le sotterro o le nascondo, era un piccolo gruppo di dipinti che aveva a che fare con le migrazioni, però quelle degli svizzeri verso l'Italia. Su ogni tela avevo dipinto un numero e tutte insieme formavano la cifra esatta degli immigrati svizzeri in Italia, fornito dall'Ufficio Federale di Statistica. I numeri erano dipinti ad olio, solo olio senza colore, quindi invisibili, e sulle tele avevo gettato dei colori ad acqua che andavano a macchiare la superficie, mescolandosi tra loro ma che, reagendo all'olio, rendevano visibile la numerazione. In un certo senso penso di aver dipinto dei dipinti che si autodipingono. Per perfezionare il sistema fino in fondo, dovrebbero essere anche autovendibili, ma sappiamo che non è il senso del business. Ho preparato per concludere una lista. Volete la mia lista? She said there's nothing to say. She said there's nothing to love. She said there's nothing to say. Si chiama Una lista completa di tutte le cose ed ecco qui un riassunto parziale di tante cose che ho fatto. Tutte le azioni qui descritte sono state effettivamente realizzate. Prima riga, completamente inutile, solo per allungare il testo. Fare una lista a memoria delle persone che si conoscono e scriverla su un foglio. Rinunciare ad avere un'idea, come idea da mettere in mostra e farsi dire che fare. Farsi realizzare un'opera da altri senza mai vederla dal vero. Scrivere un testo critico su un critico d'arte, dipingere una pittura acheropita, ovvero una pittura che si faccia da sé senza la mano dell'uomo, considerare se un workshop sull'ozio si possa ancora definire workshop pur contenendo le parole lavoro e negozio, fare un'insegna con scritto negozio sopra la porta di una galleria d'arte, intendere l'interpretazione della propria opera come tecnica artistica aggiuntiva che trasformi l'opera, andare alla ricerca di una forma d'arte senza forma, fare arte senza artisti e mostre senza opere d'arte, co-condurre esercizi di xenoglossia, modellare la creta senza toccare con mano, inserire un messaggio personale nel testo di un catalogo, telefonare a tutte le Francesche che si conoscono, affittare uno spazio all'interno dell'opera di altri artisti, cercare una fidanzata svizzera, raccogliere complimenti sparsi da utilizzare come referenza futura, scrivere recensioni di mostre con pseudonimi e opinioni diverse, fare la copia di cartone della scultura della stanza accanto, abitare per 6 mesi sotto un tavolo, farsi ospitare dalle persone incontrate per caso, scrivere su un foglio i propri segreti più intimi e murarli al centro di una stanza, esporre la descrizione verbale delle opere esposte in altre mostre nel passato, fare dei dipinti che abbiano come soggetto la foto delle mostre precedenti, dipingere 3 ritratti uguali uno sopra l'altro, nella stessa tela, strappare la foto di un altro artista e ricomporla a piacimento, montare 5 serrature sulla stessa porta, fare video con obiettivi sbagliati che impediscano la messa a fuoco, fare un film muto senza immagini, non parlare per 24 ore, partecipare alla stessa mostra con almeno 2 identità diverse, curare una mostra di artiste donne con uno pseudonimo femminile, partecipare a mostre senza saperlo, cedere il posto a un altro artista alla propria mostra senza avvisare nessuno, scrivere un testo che sembri una parodia per allentare la tensione. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Coxo Spaziale. Allora, Norese per me è un amico, è un artista, è Oreste, è il Link, è tante volte a Milano. Mi viene a prendere la stazione e poi dopo andiamo a vedere una mostra. Norese è un punto fermo per confrontarmi, che poi quando ci confrontiamo non diciamo niente, ma abbiamo capito tutto. E Norese Highlander è sempre uguale, fisicamente non cambia mai. E Norese è sicuramente Norese. Non vedo l'ora. Ciao, una frase di Albert Camus. Sono i pigri a muovere il mondo, gli altri non hanno tempo. Sì, Giancarlo Norese è una serena Pasqua. Dunque, Giancarlo Norese mi ha appena detto che un amico di un amico di un amico conosce Giancarlo Norese. Giancarlo è sicuramente una persona singolare e preziosa, curiosa, precisa, arguta e fumettosa, oziosa e dinamica, riservata e collaborativa, imprevedibilmente affettuosa e giocosa. Comunque nel Lucca Fauso Giancarlo Norese lo conoscono tutti, anche se molti non sanno come si chiama. Mi raccomando, di loro che si chiama Giancarlo Norese. Giancarlo Norese. Giancarlo Norese. L'attenzione non è uno sforzo muscolare di grignare, sopportare un lavoro manuale. L'attenzione non è uno sforzo muscolare di grignare, sopportare un lavoro manuale. Attenzione, un quarto d'ora d'esprimere nel desiderio. L'intelligenza si esprime nel desiderio. L'intelligenza si esprime nel desiderio. Un quarto d'ora d'attenzione, un quarto d'ora d'attenzione, un quarto d'ora d'attenzione, un quarto d'ora d'attenzione. E dunque Dunque ringraziamo Annalisa Cattani, Adriana Torregrossa, Anna Stuart-Tovini, Luca Rossi, Ermanno Cristini, Emanuela Scari, Luigi Negro, Lisa Batacchi per aver dato il loro contributo nel tentare di capire un personaggio astratto come Giancarlo Norese. Astratto forse non è la parola giusta. Comunque, anch'io obiettivamente continuo a non capire nulla di Giancarlo Norese, anche se sono l'orgoglioso collezionista di una sua multa che ha preso tipo da ragazzino perché aveva attraversato la strada col rosso. E fra l'altro l'aneddoto interessante è che la vigilessa a Novi Ligure, non sapendo chi fosse quello che aveva attraversato, ha chiesto ai passanti se conoscevano il ragazzino e la multa gli è stata recapitata a casa con un grosso disappunto dei genitori. Dopodiché tipo 30 anni dopo, non volendo far pesare questa cosa ai genitori, presumo, o comunque per togliersi questo peso dalla sua storia, Giancarlo ha messo in vendita la multa per esattamente il prezzo equivalente in euro della multa in lire, che secondo me erano tipo 3.500 lire o forse 7.000 lire, insomma non credo di aver speso più di 7 euro per quell'opera d'arte, e appunto adesso varrà un'immensità, soprattutto dopo aver fatto una trasmissione così focalizzata, così approfondita sul lavoro di Giancarlo Norese, che continuiamo a non capire in che cosa consiste. It's left side and basic. Yeah. The girl them can't replace with Jamad. Never. Dance all rulers. This are the big league. We no schoolers. Yes, we coolers. Nice. What a girl, nice. Back it up a bit. Back it up a bit. Yeah. You pretty woolly girl, you know pretty little bit. Yeah. Look how your body tick big. Go hip and two, you a tip. Love it when you lick your lip. Girl, me can't forget it when you bend and I set it, Anna. When we get it, you know me nah bet it, Nana. In a pants, she ready for see like it, Anna. When she get it, she nah go regret it, Nana. Set like you pandi bike, Yamaha, Katana. Shape like a Spanish guitar from Havana, Panama. What a girl hot so, one of a kind. Pose for the camera, wine. That are your favorite. Come make me wine your body like say me did a pay for it. Wine to the ground, girl, sit down, hand step on it. Me know you feel the long pen, come in, no care no paper clip. Wine up yourself from your feet like it. Big bite there, you beg you please ride it. The body boy you have, girl, me like it. The body boy you have, me want beside it. Me need you, me need you, me need you. Tell me what me need for procedure. Yeah, me want feature. Come here. Bring it, bring it. Bring it on, bring it, bring it, bring it on. Bring it, bring it, bring it on. Bring it, bring it, bring it on. Yeah. Bring it, bring it, bring it. When you see me, style where you gimme. Shot like a bingy, fling it, fling it, fling it. Like a fimmy, fimmy. That one you with left side and a sing it, sing it. Broad like is a panorama. Why? Heavy girls said them want a banana. Yo. Star for the show, you know full of drama. Wind up your body for the one, yeah. Girl, go with the flow when you sit down pan it. When you sit down pan it, beg you not drop off at it. Big money you know you me go get. Log on pan it. Log on pan it. Wi-Fi connect pan it. Wind up yourself from your feet like it. Big bite there, you beg you please ride it. The body boy you have, girl, me like it. The body boy you have, me want beside it. Me need you. Me need you, me need you. Tell me what me need for procedure. That bad something they ain't. Yeah, me want feature. Yeah, come here. Bring it, bring it, bring it on. Bring it, bring it, bring it on. Bring it, bring it, bring it on. Bring it, bring it, bring it on. Back it up a bit, bit. Back it up a bit. Yeah. You pretty woolly girl, you know pretty little bit. Yeah. Look how your body tick, big. Little hip, and two of you a tip. Love it when you lick your lip. Yeah, wind up your body fit. Me make everybody see. Some a say you bossy, some a say you cockati. Set like geometry, make a measure your property. When me a work, she a twerk for me properly. Wine pon the rhythm with authority. Girl, me know say you love the bass like Odyssey. Some girl a hate pon you with the audacity. You not truck back, but you wine a la easy. Wine up yourself from your feet like it. Big bite there, you beg you please ride it. You have girl me like it. Yeah. The body boy you have me want beside it. Me need you, me need you, me need you. Tell me what me need for procedure. Never something they underneath you. Yeah. Me want feature. Yeah. Come here. Inoltre, in questo strano gioco di scatole cinesi tra domande, risposte, eccetera, effettivamente, se io fossi un ascoltatore di questa puntata di Coxo Spaziale, mi chiederei: ma invece, questa Beatrice Zuccotti, chi è? E per il pubblico potremmo semplicemente dire che Beatrice Zuccotti, che poi Beatrice Anna Zuccotti, era una povera pentita affetta da analfabetismo funzionale. E questo è tutto quello che posso rilasciare al pubblico. Giusto, Beatrice Anna Zuccotti, scusami tanto. Grazie, allora. 42esima e 48esima biennale di Venezia, con sede a Milano alla Clock Tower. Il mio Gallery, lavoro è New stato York, esposto Galleria, in mostre di artisti Lugana, in un continuo, luogo come San Villa Miniano, Accademia Pistoletto, Roma, Bologna, via Farini, Milano. Performa 07 allo Sculpture Center, New York, Tenda, Rotterdam, MAMM, Mosca, e gli eventi andando. Sono da stato uno degli 13. Iniziatori e l'editore dei libri per Progetto Oreste 1997-2001, una rete di artisti e curatori internazionali. Le mie pubblicazioni includono libri pubblicati da Galleria Massimo De Carlo, Carta, Istituto Svizzero di Roma, La Rada, Kunst al Marcel Duchamp, Verlag für Moderne Kunst, Sputnik Editions. Sono stato anche artista associato presso l'Atlantia Libri e Riviste Artici, o Civitella Ranieri, un artista residente al Red Gate Pechino, 2011, e all'Asu Art Museum, Arizona, 2012-2013. Mi è stato assegnato il primo premio al premio Terna nel 2010, al 47esimo premio in molti progetti collaborativi e al premio NCTMLale nel Rio University, i libri degli artisti, un certo numero di libri, la C, le azioni plurali, Luca Fausu. Gli spazi gestiti dagli artisti e la creazione di una fondazione, la creazione la creazione di una fondazione, la creazione di una fondazione, la Giancarlo Norese, Giancarlo Norese, Giancarlo Norese, Giancarlo Norese, Giancarlo Norese, Giancarlo Norese, Giancarlo Norese, Giancarlo Norese, Giancarlo Norese, Giancarlo Norese, Giancarlo Norese, Giancarlo Norese, Giancarlo Norese, Giancarlo Norese, Giancarlo Norese, Gonzalo. Dovete sapere che questi appunti sonori, che non saprei come altro chiamare, sono opere di Francesca Veglio. Le lasciamo descrivere direttamente a lei. Francesca, cosa sono queste cose che abbiamo appena ascoltato? Ciao a Coxo Spaziale e a tutti voi che ascoltate. Come dici tu, sono appunti, sono frammenti di quarantena, idee catturate in un'istantanea sonora. Sono praticamente ricordi che canto, esperimenti immediati e istintivi che mi danno molto spazio e respiro in questo momento particolare. E li sto raccogliendo in un diario e a tutti gli effetti sarà un libro, ma un libro sonoro. Comunque nel mio ingresso c'era un attaccapanne. Comunque nel mio ingresso c'era un attaccapanne. E dunque l'arte è dappertutto, anche nelle gallerie d'arte. Dice Giancarlo Norese. E volevo sottolineare che, malgrado tutto questo collage sonoro che ho messo insieme, il mio tributo a Giancarlo Norese non vuole essere ironico, non vuole essere sarcastico, vuole essere completamente a cuore aperto. Giancarlo non arriva. Insomma, in una puntata come questa sono tante più le domande che non le risposte, ma va bene così, io direi. E infatti un'altra domanda che io vi pongo è: ma questa Alessandra Raschio Bachino che ci canta questa canzone, chi sarà? Ba-da-da-da. E in differita su Instagram abbiamo la fantastica Irma Ridolfini, attrice coordinatrice del progetto TP, stagione di teatro partecipato, nonché ex co-conduttrice coxica quando io un anno non c'ero con Fedra. La domanda è: Irma, come stai innanzitutto e che cosa fa una teatrante come te in un momento in cui il teatro non si può fare? Ciao a tutti coxici, sono felice di ricomparire in Coxo Spaziale. Come sto? Sto bene, abbastanza bene direi, con i teatri chiusi che si fa, ma in realtà io insegno teatro e quindi come molti colleghi mi sono gettata nell'avventura dei corsi di teatro in video lezione, che ovviamente è abbastanza surreale dato che il teatro è un'arte che si basa sulla relazione e la relazione virtuale è ovviamente molto molto strana, molto diversa da quella che si può esperire su palco, ma sono contenta comunque di fare qualcosa perché questo consente di mantenere un rapporto con le persone. Perciò sono in attesa di capire quando riapriranno i teatri, perché noi abbiamo il nostro programma che dovrebbe ripartire a settembre e siamo in attesa di capire se questo sarà possibile, e abbiamo dovuto sospendere ovviamente delle attività di laboratorio intensivo che avevamo in programma in questi mesi, abbiamo dovuto mettere in pausa la produzione di uno spettacolo che volevamo scrivere con il contributo attivo della cittadinanza qua sul territorio della Bassa Modenese, per cui insomma cerchiamo un po' di goderci questo momento di stacco, di anche riflessione, per cercare magari di ripartire un po' meglio e con delle condizioni lavorative migliori, ma non solo. Diciamo che vedo in questo momento di stacco forse un po' la possibilità di ripensare al ruolo della cultura, dell'arte in Italia. Per cui in bocca al lupo a tutti gli artisti. Ciao Coxici! Coxo spaziale! Yeah! Sta sola ad aspettare il grande amore, donna di nessuno, per volere troppo sempre no dicesti al cuore, donna di nessuno, sola coi tuoi sogni disprezzi la realtà, ma cerchi il sole nell'oscurità, la felicità ti sei negata in gioventù, donna di nessuno, piangi sul passato che non tornerà mai più, donna di nessuno sei tu. Sogni disprezzi la realtà, ma cerchi il sole nell'oscurità, la felicità ti sei negata in gioventù, donna di nessuno, piangi sul passato che non tornerà mai più, donna di nessuno sei tu. Giancarlo Norese. Giancarlo Norese. Questo pezzo era Donna di Nessuno di Scapestro, ovvero Fulvio di Nocera, aka Scapestro, chitarra, acustica e voce, Chiara Carnevale, voce e percussioni, Antonella Bianco, Nord Electro Ready, Caterina Bianco al violino, Elio 100 grammi di manzo, anzi Elio 100 grammi manzo, chitarra elettrica. Cosa ci dice la nostra fantastica Francesca Grispello di Simpress 44? Ti segnalo l'uscita del nuovo singolo Donna di Nessuno di Scapestro. Ho ascoltato Donna di Nessuno in un periodo nel quale seguivo con curiosità e interesse la ricca produzione di Fred Buscaglione, nonostante la sua breve carriera stroncata dall'incidente in auto. Donna di Nessuno mi ha catturato da subito per il carico emotivo, il testo minimale, semplice ma struggente. Così ho iniziato a suonarla dal vivo e pian piano ho metabolizzato il senso delle sue parole, cercandone una nuova luce e una nuova interpretazione. Queste sono le parole di Scapestro. Fulvio di Nocera, in arte scapesto, è nato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, nel 1978, un giovanotto, attivo contrabbassista per Polina, Bisca, 24 Grana, Francesco Di Bella, Daniele Sepe, Pennelli di Vermeer, Rione Giunno e Songs for Ulan. Con lo pseudonimo di Scapestro ha debuttato nel 2015 con il primo singolo Vado per un po'. Nell'estate 2018 è uscito il suo primo album Shuruk e naturalmente su Facebook lo trovate come Scapestro Official. E dunque anche questa puntata di Coxo Spaziale giunge al termine. Naturalmente vi diamo appuntamento la settimana prossima, sempre alle ore 19 su Radio Città Fujiko 103.1 FM, oppure su radiocittafujiko.it se non siete vicini a Bologna, oppure naturalmente il giorno successivo su www.coxospaziale.blogspot.com. Questa volta finiamo con i ringraziamenti e ringraziamo di nuovo Annalisa Cattani, Adriana Torregrossa, Anna Stiglione, Stuart Trovini, Luca Rossi, Ermanno Cristini, Emanuela Scari, Luigi Negro, Ale Raschio Bachino, Lisa Batacchi, Anteo Radovan, Francesca Veglio, Jessica Lopez e naturalmente Beatrice, Anna Zuccotti e Giancarlo Norese, che ci hanno deliziato con la loro intervista. E inoltre naturalmente non possiamo dimenticare il nostro direttore Alessandro Cannella, che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. My wish for you, sweet happy life. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era sempre Coxo Spaziale e naturalmente salutiamo la nostra cara Fedra. Ciao. Follow the days, be dancing nights, stars for your smile, moons for your hair, and someone's wonderful love for your loving heart to share. My wish for you, sweet happy life, may all your sorrows be gone and your heart begin to sing. And if a wish can make it be, I wish to spend every day of your happy life with me. Stars for your smile, moons for your hair, and someone's wonderful love for your loving heart to share. All your sorrows be gone and your heart begin to sing. And if a wish can make it be, I wish you spend every day of your happy life with me. Sweet happy life, sweet happy life. Giancarlo Norris.